affrontarci un problema del genere. L'inserimento nel mondo del lavoro dipende molto dal potere della famiglia, quindi dal contesto sociale e politico in cui si è nati, insomma. E risulta molto più difficile l'inserimento in situazioni. Questa Italia.